attende a radio, che fa? Uno si attende. Il 3009 è questo microfono KPO532, roba olandese, 35 euro. Poi c'ho anche l'aiutino adesso. Se c'è una radio è spettacolare. Hai visto, Marco? Hai visto? Non abbiamo detto niente noi. In genere io, Marco, lo sento sempre con queste radio, sai, quelle tra virgolette da salotto. Cazzo, ma c'è una radio allucinante. Aspetta, gliela faccio sentire ancora più. Così è tutto manetta, sto parlando anche con una voce pacata, fai che siamo 4-5 dita dal mic, posso allontanarmi di più, tutto il braccio dal mic, vedi com'è, 3009 con trimmer aperto e questo microfonino da 35 euro, vedi un po'. No, oltre che c'hai una radio che è bellissima, ma c'hai dei picchi allucinanti pure. Aspetta che la metto a metà, ecco, come prima. Claudio, digli cos'era in confronto l'M95 che ho provato assieme a metà. Messi tutte e due a metà. 100 a 0 batteva. 101 a 0 e dalla 500 alla Ferrari. Questo l'M93 lo puoi mettere anche dentro il cassetto, non si vi annuda. Questa è una radio spettacolare. Guarda, io ti ho sentito col 920, 10 più inserito, il 27 sembri qua vicino a me. Bella, forte, rimbombante, con effetto presenza, con le tonalità giuste, perfetta. Sì, no, io temevo, Massimiliano, io temevo che fosse lo stesso circuito dentro, che alla fine stessi comprando lo stesso circuito con una buccia diversa e un nome diverso, invece no, è proprio questa la modulazione, la timbrica e anche la spinta, va bene. Ora, sto uscendo? Adesso sì. No, non avevo schiacciato bene il PTT. Avvicinatelo un pochino più alla bocca, vedete? Allora, dunque, così sono 5 dita, così sono di lato al mic, vicino al mic, di lato. Messo di taglio in modo da non sputtare sopra, vedi com'è? Regolazione a metà, Superstar 3009, trimmer aperto. No, non cambia niente, dai, da girato, cosa non cambia nulla, sempre bella modulazione. Guarda, vuoi sentire il paragone? Te lo faccio al volo. Metto l'M93 a metà, anche se lo metti a manetta, secondo me questo è superiore. Dai, non voglio monopolizzare, prendete voi. Vado subito io, Gianni, riprendi. Ehi, Marco, vi lascio da io, riprendiamo anche io e Claudio. Come si chiama questo microfono che lo guardo su internet? Ehi, un attimino. Allora, ecco, ZGM95, sempre 4-5 dita dal mic, messo a metà. Niente, se vuoi lo metto a manetta, ma non c'è storia a quanto pare. Vai Massimiliano, che loro me l'hanno già dato il controllo. Allora, stai modulando al 50% in confronto all'altro microfono. La modulazione è bella lo stesso, è più rilassante, ma è molto molto molto più bassa. Prova a portarlo al massimo. Ok, messo al massimo, forse adesso spinge, lo vedo ai picchi. Stessa distanza al mic, naturalmente non frontale, è sempre di 3/4 lo uso. Forse così al massimo si avvicina a quanto è l'altro a metà. Sì, te lo stavo per dire io. Allora, così al massimo sei non proprio a livello di quello però, ok? Quindi anche questo qua, così al massimo con questa radio, con questo livello radio la puoi usare tranquillamente anche quello, così al massimo è bello anche questo, però quello là mi piace di più di timbrica. Buona sapere, stiamo nel link M532 e adesso vado a vederlo. Ma è questo che c'ha il celestino? Esatto, c'ha il celeste e il nero, dai. C'ha delle scritte celeste. Ok, qua mi dice 39,20 più 7,99 di spedizione da eBay. E poi di buono c'è anche il Densi, che è tipo l'M93, quello della Intec. Va benissimo quello lì. Molto bene anche il Densi. Buttateci tutto, io. Allora, questo comunque è un ottimo microfono, sì Marco, sì. È ottimo, buono. Oh, alla parete fa di schifo, Ah, il guarda che ce l'hanno disponibile a 4 pin, a 5 pin, a 6 pin, e inoltre se te lo vuoi cablare o Midland o Cobra Galaxy, cosa, te lo fanno loro per lo stesso prezzo. Questo va bene, questo te lo puoi ordinare già, vedi? Questo è un buon microfono. Ciao, Lubrofè. Mica da male, perché non c'ho carta, capito? Non posso ordinarlo, non ne ho di carta per ordinarlo. Se c'è qualcuno che me lo può ordinare, gli do i soldi, non c'è problema. Lo puoi ordinare da Marco, visto che l'ho ordinato. Se volete fare un ordine unico, a chi interessa, naturalmente ho i miei tempi, perché qua c'ho mamma che è quasi allettata, non proprio allettata ma quasi, quindi sono un po' pieno da questioni familiari. Ah ok, no vabbè, a me non mi serve, io microfoni già ne ho, anche truffi, mi basta quelli che ho. Lubrofè. Buonasera a tutti, non ho fatto ascolto. Per me Lubrofè, anche io ho fatto ascolto, però ti ho sentito. Saluto a tutti, dai. Ciao Gianni. Ciao Marco. Ciao Lubrofè. Mi nomi è Natalino, mi adesso gli giro lo smitter. Vabbè, allora vedi, facciamo lo smitter. Ciao Claudio, buonasera. Buonasera Lubrofè. Lubrofè. Avanti, avanti. Ah, non sto uscendo con questa radio. Chi? Tu. Certo che stai uscendo. Allora chi non mi rispondi? È perché siamo sovrappopolati. State parlando, mi state mettendo la portata, peggio buon preso, là. Non fa vedo più, ciao. No, ti ho sovrappopolato io. va bene. Sicuramente comunque sarà un po' la batteria scarica di questo microfono. Perché il picchio lo vedo, già c'è, però è leggero. Ma il tuo, Massimiliano? Com'è che sta andando di modulazione? Guarda, c'ho la batteria, ci sarà 25 anni dentro questo microfono. Ah, per me sei un figurone. Se penso a te, sì. Non so cosa dicono gli altri. Oh, non lo so, gli altri cosa dicono. Più di così vuoi andare, è una bomba. Allora, ok, no, pensavo che si stesse scaricando la batteria. Va bene, allora, se sta andando bene, lasciamo tutto il mondo come capa. Come fai, propagazione, c'è vendi la notte, a mezzanotte, l'una, due, due, tre. Oh, mi sono venire di una capace. Certo, va a mollare il naso. Col candelotto fa la fara. E lo da saletto. Quelli li controlliamo ogni tanto, dai. Nelle liane, così è. Bisogna controllare le liane, i tazzanetti, tutto grande. Gappa, gappa. Dai, riprendete un secondino che io mi allontano a bermi un bel bicchiere d'acqua fresco, là. Acqua, però mi... Acqua, Claudia, la birra me l'ho già bevuta prima. Io mi sto andando a cena fuori. Ma almeno ha rinfrescato fuori. Ancora rinfrescato, sto qui per fare la pipì, poi non è entrato... Non è entrato qualcosa nel naso. Minchia, dice che sabato 35 gradi. Ciucciu. Sì, ma è dentro casa. Io me ne entro nel frigo. Guarda, quando fuori sono 35 gradi, qua ce ne 25. Io svuoto il pozzetto allora. Quanto è il pozzetto? 20 sotto zero, di solito, quanto è? È esagerato, cos'è? La sa carne. Io mi vado un po' su lei, ma... Già va bene, lasciatelo fare, che ci voleva il caldo, dai. Ma è troppo in anticipo, Gianni, è troppo in anticipo, capite? Adesso questa è una perturbazione africana di passaggio, ma dalla prossima settimana le temperature di maggio tornano normali, intorno ai 23-24 gradi, non di più. Speriamo. Beh, così ha detto Guido Guidi, quel tenente colonnello dell'aeronautica, questa è una perturbazione di passaggio di maggio, poi le temperature tornano a normalità e poi a metà giugno risalgono, capito? Comunque avete notato, oggi propagazione in logo, ieri c'era un abolotto, già c'eri anche tu Claudio, no? Oggi nulla. Ieri c'eravamo la Puglia che arrivava 9 più 10 qua, alla grande. No, anche 9 più 20, c'è stato un passaggio che qui era 9, uno non so se era da... e a te è arrivato 9 più 20 addirittura. Eh sì, arrivava fortissimo, poi si accavallava Riccardo con Roberto, che uno era nella Puglia Nord e l'altro nella Puglia Sud, da un attivale all'altro, e quindi si accavallavano perché non si sentivano. Va bene, dai signori, io vi lascio del tutto adesso, mi allontano perché mi devo preparare, che devo andare a cena fuori, se no poi faccio il appuntamento alle 8:30. ciao a tutti, buon proseguo di serata, buon coccio a tutti, baci e abbracci, ciao. Ciao ciao, buon divertimento e buon appetito, Carlo Luvini, salutami Franco. Saluto anche a Gianni il Profeta che non poteva entrare, adesso lo facendo loro. Ciao Gianni, anche io qua, un paio di passaggi e poi vado a prendermi una buona e meritata boccata d'aria. Beh, adesso è l'unica, in quel caso mi prima non fa uscire, meglio uscire la sera che si sta qui. Vabbè, anche perché dovevo stare qua, dai, quindi per causa di forza maggiore, Marco già ne capisce. Mi sa che siamo nella stessa situazione al momento, Gianni. Mi sa di sì. Dai. Un altro paio di passaggini e vi lascio. Sì, io ieri lo stavo ascoltando, ho sentito la Puglia che arrivava fortissimo, anche qua li ascoltavo, erano con dei segnaloni allucinanti, dai. Sì, sì, anche con i watt del baracchino rispondevano subito, anche a Giulio con un watt, c'era al minimo, era tutto al minimo, gli hanno risposto. Sì, sì, ho sentito. Massimiliano è andato a prendersi la birretta, no? Ah, lui ha detto acqua, ha detto che la birra l'ha bevuta prima. Sì, sì. No, io praticamente bevo solo acqua in estate. No, vabbè, io alcolici già non ne bevo. L'alcol mi fa un effetto strano. Però acqua a quantità industriali è tipo cammello. C'ho pure la gobba. Allora è un dromedario. Sì, c'è ragione, dromedario. L'alcol le ginocchia le piega. E a Franco, ciao professa, ciao Marco, buonasera. Ciao Franco, ben sentito, buonasera anche a te, dai. Cappa, ciao Gianni. Capito Marco, l'arco piega le ginocchia. Ehi, ciao Fra. No, non ti stavo riconoscendo dal segnale che è più basso. Stai usando un baracchino tipo Saturn, Galaxy, Superstar? Sì, The Galaxy, Saturn, ecco. Ehi, bella, bella modulazione però, Mi ricorda il Gianni vecchia maniera. Ti ricordi cosa ti dicevo? Tra te e Franco binario, le modulazioni migliori, più effetto presenza. Bene, fate girare, vado a bere a proposito. Natalino, ci sei ancora, riprendi. E allora, io sono piccola nera, a me mi dici sempre che c'ho la modulazione brutta, boh. No. Cosa c'ha? Qualcosa comprova il Galaxy, questo qua come? È diversa la timbrica, tu hai presente Franco binario come c'è col microfono particolare, c'è di una limpidezza, questa è un po' più rimbombante, becca un po' il coso ambiente, mi rimbombo dall'ambiente, è tutto lì, la timbrica è buona però. Scusate l'intromissione, dai. Ragazzi io scappo, dai, vi saluto a tutti, grazie della piccola chiacchierata, dai, vado a prendermi un po' d'aria, dai, ci si aggiorna magari più tardi o le prossime occasioni, dai, buona serata a tutti e buona chiacchierata, ciao ciao. Ciao Gianni Rubroffetta, grazie per le quattro chiacchiere, alle prossime, avanti Marco. Io, ciao Gianni, ci sentiamo. Buon tutto, buona passeggiata e buon bocchino d'aria, come dico io. Ciao Gianni, buona passeggiata, buon pomeriggio, ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao Gianni, ci sentiamo. Ciao Natali. Ciao Franco. Non ti risponde, non ti sente. Franco, lo senti Natalino? Sì, io lo sento, l'ho salutato. Ah ok, baba. Si sentono le ambulanze? Sì signore. Via. A Franco volevo chiedere se in distanza satura, vedi un po', 1, 2, 3 prova. No, non è satura, va bene. Va bene, e quindi riesce a sopportare anche l'aiutino, mi fra, guarda. Ecco, così 3, così 50. È più bella la radio anche. Con 3? Sì. L'ultimo passaggio che hai fatto. sei, vabbè, non so che c'è rimasto Natali qua, che ci sono distratto io. C'era Gianni, ci sono io. Io mi ero spostato perché il cane stava abbaiando, però non c'è nessuno, ho visto che non c'è nessuno. Boh, chissà cosa ha inteso. Cosa stavi dicendo della mia radio, Marco? No, ok. Era uno scherzo quello che dicevi. No, cioè sì, bene, solo c'era un periodo che usavi quel Polmar famoso, il Polmar maledetto io lo chiamo, cioè che sa capsula, ma anche Pomponio si era lamentato all'epoca di quel Polmar, è una cosa infame, cioè proprio serve, proprio come un morgato da mostrare, però è indegno, bisogna stare a cambiare capsula, fare prove. La prova prima faceva decisioni apparecchie. L'ho regalato, perché guarda, per non tirarlo a terra. Perché non si poteva aumentare il radio, vuol dire? Nulla, non potevi fare nulla. Ah, poi la Polmar, Gianni, non dava lo schema. Lo schema di quel Polmar lì era introvabile. Era simile alla Fayette Zeus, simile ma non identico. E alla fine piuttosto che toccare la cieca, poi quei trimmer microscopici di un millimetro, rischi di sbarrare tutto. Io pensavo che fosse morta come casa la Polmar, ce l'aveva un amico mio, ma ti parlo di 40 anni fa, il Polmar 23 canali, praticamente era tutto azzurro metallizzato, ma è bello, e usciva fortissimo. E quello era un signor apparecchio, ma quello che ho preso io come omologato, ce l'ho dovuto regalare, mi ho dovuto comprare il 3009 omologato perché, guarda, no, non andava né avanti né indietro, watt non se ne potevano aumentare, radio più poco, qua, meglio la morte. Ma sai chi ce l'aveva? Antonio Antino Tilocca. Allora si chiamava Sambuca di nominativo. E mi sembra che ce l'ho avuto anch'io, quello azzurrino. Ma quelli erano signori apparati, adesso stanno uscendo tutti con questi SMD, sono qua, non hanno trimmer di regolazione di nessun genere, neppure te lo dice Marco com'è. Sì, già lo so, sono, a parte che gli SMD sono micro componenti, a lavorarci deve essere un casino. Adesso è tutto diverso, però stanno facendo delle cose innovative, gli apparecchi che hanno dei menu dove si può andare in diverse nazioni, eccetera, eccetera, poi aumentano di watt, eccetera, cose che prima non facevano. Ma io ti dico, ce l'aveva Antonio con l'apparato, riusciva a livello del toccai. E erano costruzioni diverse. Il Tokai 5024 io non ce l'avevo lo stesso, quello lì era un signor apparato tutto originale, me l'aveva regalato Mario mio fratello e me l'hanno rubato dalla macchina quello. Io ne ho avuto due Tokai 5024, tutti e due nuovi nuovi con la roba, con tutto quanto, solo che mi dirà Claudio disturbava, entrava nei cimenti quello mio da cattera fuori. Già lo so, erano quartati, il mio pure c'aveva tutti i gommini, tutto, perché ha fatto per metterlo nelle barche. Era massiccio, cioè, era un bel massiccio, ma anche il forma, quello che c'aveva Antonio era bello massiccio, non a livello del Tokai, perché il Tokai era il Rubiero, brutto grosso. C'aveva addirittura la staffa cromata, c'aveva. E era bello. Qualcuno ce l'ha ancora, io l'avevo comprato da un collezionista, poi è venuto un amico qua, l'ha visto, no, quello lì me lo devi dare, io ti quanto vuoi ti do, e alla fine me l'ha pigliato. Invece mi ne hanno pure adesso che è andato più bene dalla macchina. A me dalla macchina mi hanno rubato l'Intec FM500S. E un altro che non andava bene, ce l'avevo anch'io quello lì, il 500S, 34 canali. Come andava bene? Il mio era 40 canali. Vabbè, a chi l'avevi fasciato il rubomutatore? No, c'aveva una linguetta, me l'ha detto un camionista. Cioè, basta che prendi uno straccio con la pizza, forse appena appena si rompe la linguetta e continua, te li segnava pure. Lo so, anche il mio era fatto così. Poi gli avevo fatto delle modifiche io a quello lì. C'aveva i canali sotto, sopra, cazzo, non aveva fatto poco di cosa. Quell'intake era, andava bene. Io avevo messo quel microfono intake con la rettina, quindi con la batteria da 1,5, sai che ci siamo morsi, mi dicevo che ci siamo lineare attaccato, ma anche da lineare. A Porto Torre sono venduto a... quando ho mollato tutto, la frequenza l'ho dato come si chiama? Al gruppo CB di Porto Torre. Mi figurati. Io ero iscritto lì, poi sono stato iscritto all'ARI di Porto Torres, adesso mi dovrò tornare a scrivere, a luglio mi dovrò riscrivere all'ARI. Ma perché a Sassari non c'è l'ARI? Già c'è, ma io sto facendo il corso lì e quindi mi devo iscrivere lì. È un po' fuori mano, ogni volta tocca scendere a Porto Torres. No, la sezione è a Sassari. Ah, ho capito. Solo che non ho diritto di voto come SWL, mi iscrivo. Quando avrò la patente vuol dire che divento effettivo. Ma io vabbè, no. A me essere iscritto all'associazione non mi è mai piaciuto, mi piace essere indipendente. Vabbè, Cata, il corso te lo fanno gratis, è un grande aiuto. Cosa vuoi, no? Per 30-35 euro che spendi, cosa vuoi che sia? Almeno gli dà un aiuto a questa associazione, perché anche loro hanno le loro spese, hai capito? Ognuno la pensa come vuole, io non è per le 35 euro, perché non mi va, che tu gamba sa che tu va a vita. E io frequento Rugorse e Bu. Vita associativa non è facile. Se capita di dover presenziare a qualche riunione, presente, tanto non devo votare, responsabilità non ne ho, quindi. Va bene, va bene. Andavo, io vi saluto, dai che vado a portare giù il cane. E questo qui, va bene, drumito è ancora. Non c'è ancora scinto. Perché col caldo si addormenta, se non riscendi non si riscenda. E i molossi sono così. Un esempio, invece lì tu stai andando nei torrenti, cazzo, è una cosa che non si gridi. Ma anche lui quando è sveglio ci viene appresso, sembra l'ombra, sembra appresso a lui, come a Elena, sta sempre appresso, non ci fa fare nulla, poi quando libero gli uccelli, già si diverte poco. Se il mio cazzo è geloso del canarino, qua. Qualche giorno che viene glielo posso vedere, non vuole che io parli al canarino, nulla, a chi si incavola, è giroso di tutto. E lui lo stesso, lui non vuole che parli Marco Paga, ci mette a abbaiare. E poi lui ci gioca con i pappagalli, perché non le calopsite, ma i lori gli salgono anche addosso, li vanno sopra, eccetera, non li fa nulla. Meno male già. Cazzo, a chi si gira non ti vida assai. Perché se lo morsicano magari si gira, capito? E no, non fa. Il mio non posso pulire la gabbia che lui viene a rompere le scatole. Ti lo posso vedere, fare la pappuccia. No, lui quando puliamo le gabbie lo faccio uscire fuori, perché io li libero, capito? Li libero tutti, quindi devo stare attento che non li musicheggia. Perché quelli che conosce, i due lori che c'avevo da prima li rispetta, quello che ho adesso no, lo segue, anche le calopsite le segue. L'altro giorno per poco non ne ha gran paura, ne ho tolta un millimetro di distanza, la sapra la gran fa. Io lo gioco come te, Rugani Duio. No, no. Hai fatto bene che lo fai uscire. Il mio, cazzo, non mi posso fidare. Quando io sto lavando la gabbia, perché io quando pulisco la gabbia me la tolgo, da lì la metto qua sul tavolo per poterla pulire, per mettere il mangiare, l'acqua, tutto quanto, no? Anzi, non mi posso fidare, chiedo la tenente alla gadria, addirittura. Allora, da lì sei andato a vedere i canali, c'è anche via dei Mille. Quello lì solitamente ne ha, capito? No, non ci sono andato, cazzo. Mi volevo mettere gli inseparabili io, cazzo. Mi piace nel gruppo. Però, cazzo, e come si fa con questo canarino? Vedi la Franco che c'ha la coppa adesso. Stanno coppando con il Franco. E non mi ha detto niente. Adesso già mi li dava. Oh, la gabbia io laggiù, una. Ne ho due anche, per una è piccolina, eh. Ah, le carrozzine sono piccole, ma le inseparabili sono piccoli, non è che ci avevi visto le mani, no? Va bene una gabbia normale. Naturalmente per i pappagalli le gabbie devono essere sempre molto alte, perché loro stanno in alto. Più che larghe, molto alte, anche se sono larghe va bene, larghe e alte però devono essere. E già lo so, il pappagallo ha bisogno di volare un bel. Quando lo tolgo sai come fa? Fa un vento, sta fermo e muove le ali velocemente, fa un vento altro che il ventilatore. Mi piacciono anche le calopsite, vedi, però quelle ci vuole una gabbia grande, a chi ci diventano i biumanni? Ma la gabbia costa una cazzata, la salì, costa 80 euro, non costa niente, vai su Amazon e ci sono le gabbie alte, belle, come l'abbiamo presa con Elena, adesso ci abbiamo il luri lì perché gli altri luri non lo vogliono e quindi l'ho dovuto separare. Ci abbiamo il luri con la gabbia che ha preso per le calusite. Le calusite le ha messe nella gabbia mia, quella che usavo per la cova, capito? Perché stanno sempre covando. E vabbè, comunque ce ne vuoi due, ce ne te le do, no, te le prego, non c'è problema. Ce ne vuoi, io le ho già promesse a un negozio, però se ne vuoi allo stesso prezzo te le do. Lo so, però la gabbia vivo per le calopsite, quelle ci vuole una gabbia grande, ma dove me la metto? È quello il problema, già, che bisogna avere una gabbia grande, ma dove me la metto? In ogni nuovo luogo, e chi su è? È che sono un po' alte quelle delle calopsite, le gabbie, sono un po' alte. Anch'io ho avuto un po' di difficoltà, perché a forma di casetta c'è il tetto, prima più alto e poi più basso, no? Nella parte bassa ci sta il terrazzo sopra la cucina, però la devo girare, perché c'è la mensolina e se no tocca. La devo girare, mettendola così ci sta, perché io lo lascio tutto il giorno fuori, poi la sera lo rientro, capito? Io ho capito. Sono troppo impegnative le calopsite, magari con i cusi, come si chiama, gli inseparabili, cioè la gabbia è più piccola e già non so dove metterla, è quello il discorso, che a me mi rompe le scatole, non so dove mettermela la gabbia, perché quella dove c'è il canarino la devo lasciare a lui. Non so cosa dirti, però già lo trovi un posto, la puoi mettere anche in terra, non è che la metti in un angolo in terra va bene. Ma le cose inseparabili, le calcite non sono impegnative come hai detto tu, mangiano rughita, le bietole, mangiano rughita, bietole e come si chiama? E finocchietti selvatici, ci sono tutti vicino a casa queste piante qua, quindi io le faccio ogni giorno. E poi mangiano il mangimerolo e sono ghiotti di cracker, già te l'ho fatto vedere, no? Come lo mangiava il cracker. I cracker, quelli integrali li diamo, perché per non farli male, né salati né nulla, li diamo integrali. Ehi, quelli che devo mangiare io, in poche parole. E anche qua li mangiare le cracker. Io qualche volta, ma non sempre, a me piace più il pane perché non posso fare la scarpetta se non mi credo. Uia, uia, già. Cazzo, lo sai quanto mi è salita la glicemia solo perché ho mangiato un panino, che sarebbe mezzo panino, perché io ne tolgo tutta la mollica da dentro, no, mi mangio solo quello di fuori. a 164 mi ha fatto. Non è molto, ti sta la quinta, non mi sale anche a 210, 220, 270, dipende. Secondo quello che mangi, se tu mangi pesce e verdura, non ti sale male la glicemia, ricordatelo. Pesce e verdura, ti abbuti di risea, di bietole all'inizio e poi ti mangi, per dire, un pesce e ci andava, e c'era sempre 87, 89, io l'ho fatto per un periodo, ma non si può occupare sempre il pesce, è caro il pesce. Sì, già lo so, l'altro giorno abbiamo mangiato un trancio di coso, di tonno, buono era, la verità. Avete seguito, poi non pensavo anche io, ma è caro, è troppo caro. E poi il pesce è quello grande, hanno sempre detto che è quello più inquinato, perché sta al largo e filtra tutto l'inquinamento. Quello mangiamo è poco di quello. E non è che, come ad esempio, tanto il pesce non è che mi piace assai. Non c'è nessuno, stai, aiuto. Scendi da Gianni, mi faccio sgridare, mi. Vai a cuccia cuccia. Deve essere chi so, sono tutti i giorni in carriera, mi. Magari la gente mi passa e dentro il cazzo non vuoi che passi, mi. Che non mandano di rovistro, la vedi? Grassi buoni, fa bene alla salute e tutto quanto. Quindi dico, quello lo faccio con limone, aglio prezzemolo, un po' di limone sopra. E cosa ha già? Che ci siamo sovramodulati. Il salmone predilico, che ha dei grassi buoni che fanno bene, e praticamente è anche un pesce saporito, mi metto il limone sopra, dopo che lo faccio, faccio un po' di aglio prezzemolo, un po' di limone e un po' di vino bianco, ed è un buon modo. E gira gli dico di comprare quello a Concetta. E mi rivolto così, ma te c'è aglio bredusimolo, ti pongo un limone e rubino bianco. Io anche quando cucino ne espulso un po' di limone cucinando, appena ne espulso, poi anche quando lo mangio. Ma è buono davvero, è buono come pesce quello. Io il pesce non è che ci vada amato, però il salmone lo mangio volentieri, con la verità. Cavagava, andava bene. Oppure lo faccio con i capperi alla pizzaiola. Capperi, origano e pomodorini. Capperi, scusi, è buono, Mattessimi. Ha giovato il suo ragù oggi, già, una bomba è uscita. Mi ha dato un po' a quel medico, mi ha dato. Così domenica si fa la pasta, che viene la fidanzata da Cagliari, che è dottoressa quella lì stesso, che abitano vicino a noi, noi sono amici di Concetta. E vi ha aiutato un po'. E una persona l'ha mangiato qua a mezzogiorno, ha detto cazzo che buono, io grido, questa roba di baggio buchi. Io l'ho fatto l'altro giorno, l'ho fatto con il salsiccione suo, è uscito una bontà, anche perché quel salsiccione che compra c'è Troccardi e favoloso, io l'ho preso da mille parti, mi mangia il salsiccione, lo mangio perché mi stava sullo stomaco, forse li mettevano troppe spezie, non lo so, questo che compro Centro Carni, guarda, è una favola, è buonissimo quel salsiccione. E poi vado, compro il fegato, i gourdion per Tyson, lo paga 3,50 euro al chilo il fegato. Ah, domani mi servi di fegatini di pollo, cazzo, mi rigugineggio io. E come ne fai, buonissimo? No, l'usufrizzoli devi va, che sono poco buoni io. Ma la soffritta l'azienda del Magimani a Lugani, tu non lo sai. Non so che sono buoni, li fai con la cipolla e il vino, non so che sono buoni così, però a noi piace, di Marugani e di Magimani anche per la zionda. Marugani non li doggono, erano i bambini, i begattini, tu li doggo. Ah, pensavo per il cane, no, io al cane li do. Li compro i granigli di bue, li compro rene, li compro il fegato, è tutta roba fresca, fresca, perché che mi gira la roba. Fa, mi conviene dargli i suoi magnetù puro, a chi su cani. E chi su... è un cane, vedo un fruso, è bello quel cane. Le faccio metà diarrea, se le dai sempre il pollo per fare la diarrea, non ne ho più dato petti di pollo, dopo il petti di pollo non ne ho più dato, fa diarrea. Se li dai ogni tanto no, ma se continui a darli lì, non fa diarrea, è delicato, capito? No, un po', ma se adesso c'ha 7 anni. E il mio ne ha 6. Se delicato così, anche di razza, che sei di razza, sono più delicati, è più resistente e curto, mia, lo vedi che è un meticcio. Quelli lì, cazzo, la minima cosa, qua, sono troppo delicati quei cani. Lo so, ma quando io l'ho visto, ne sono innamorato, ho visto tutta la cucciolata, ho visto a lui e ho detto questo è un cane mio, avanti il telefoneggio. Ho telefonato, cazzo, me l'ha detto che gli dava un prezzo alto. Dava un prezzo alto, poi vabbè, già calato perché non è riuscito a venderli, quindi mi ha ritelefonato e ho detto guarda, se vuole glielo do, però non glielo do con i vaccini e l'ho solo sverminato e basta. E ho fatto tutto io, capito? E già me l'avevi detto come avevi. Beh, così, lo canito io, beh, davvero. Scusate, siccome sono mezzo drumido, poi ho capito, sverminato, ho capito, l'ho solo sverginato, come? Cazzo Marco, ha detto embriaco, non mi sembrava manco la travisata, mi sembrava quella di un'altra persona, tu non la casa di vedere, vabbè dai, si è suonato, capito. C'era Franco in parcheggio, però mi poi lo siete dimenticato, vedete se c'è ancora. Poi davvero, mi fraci, sì, qua a Sarrado, alle 8 mi chiude la mangiare. Comunque è bello, quello lì è un bellissimo cane, il bel pelo, bel colore anche. Avevi detto un colore particolare, tipo cervo, com'è che mi avevi detto il termine? Rosso cervo. Ah, proprio rosso cervo, eia. Poi vedo che è anche cordiale, cioè non è di quei cani che si avventano su tutti. L'importante è andare, dargli la mano in basso, cioè mai mettere la mano sulla testa di botto perché la vedono come una minaccia. Gli dai in basso, lo fai annusare, capito? Marco, io sto facendo con la museruola perché Tyson adesso è diverso. Tyson adesso, se lo conosce la gente, si pone male, va a carezzare sulla testa, gli salta addosso, quindi è meglio prevenire che curare. È un po' monello diventato. Ma no, ma dico, la mano sulla testa al cane non si mette, casomai gli avvicini la mano al muso però in basso, se tu gli metti sulla testa magari glielo fai anche di botto e giustamente il cane la vede come una minaccia e si difende. Sarà quello, sarà qualsiasi cosa, però è meglio prevenire. Marco, l'altro giorno con la museruola un attimo è andata a toccarlo, ma com'è va via la museruola? Sì, vabbè, però va fatto graduale, no? Come facevo io, avvicinarsi un po' con circospezione, così, in modo che si avvicini lui a te, non tu a lui, capito? E poi, vabbè, magari la colpa è anche di qualche randaggio che gira lì in zona, con cani pericolosi, senza un gerola, ti ricordi, no? E lui si sarà leggermente incattivito per difendersi anche un po', cioè è più sul chi va là a me rispetto a quando era cucciolo, c'è più esperienza. Cosa che a me ne veniva l'assessore a pigliarmi, è che quei cani sono così, non vengono da io. Il mio lo stesso, da quando l'hanno, il mio ha cambiato carattere per esempio. Il cane grande non ne vuole vedere, come vede un cane grande gli vuole soltare addosso a musicare. Da quando gli hanno rotto la zampa, ha cambiato il carattere di suo cane, guarda. Si fidi, non si fidi che la bricca di naso. Ehi, aspetta, avete ripreso nello stesso istante, è passato Natalino, già ne ripeti? Ho detto che praticamente aveva la musica. Gerula, per fortuna, che stasera non la voleva toccare, però non si fidi, signore, non si fidi. E no, no, a me non mi fanno nulla. E c'ha poi una mano, di zero di virus. Pensa se non c'era la museruola. Sì, comunque è sempre meglio, se sai che comunque il cane sul chi va là, meglio averla. Però tu sei coscienzioso e gliela metti la museruola, però c'era un individuo di quelle parti che, no? Diceva quel cane pericoloso, randaggio il cane, randaggio il padrone. Allora l'altro giorno ho fatto le bucce dal terrazzo, cioè aveva il pitbull senza guinzaglio e senza museruolo, il guinzaglio ce l'aveva male, ho detto ma scusa cazzo, ha già morsicato un sacco di cani quel cane lì, quando mai non li metti la museruola e il guinzaglio? No, ce l'ho già, ce l'ho in mano. Sì, ma cosa ce l'ha a fare in mano? La deve mettere al cane, non in mano, se si attacca a qualche cane che ti scappa come ha fatto quando ha morsicato a Tyson. Sì, infatti, infatti. Se, tu il guinzaglio lo può avere in mano, ma se il cane parte e non lo prendi più, e poi apri lì le fauci a quella bestia lì. Uff. Sì, infatti la museruola andrebbe messa al padrone e anche il guinzaglio andrebbe messo al padrone. Vai Nathalie. E io per il padrone ce li avrei due braccialetti argentati, capito? E poi per il cane la cura ce l'ho. L'hanno già messa al padrone quei braccialetti che c'è tu, Nathalie, più volte. Ma per il cane Marco già lo sa la cura che ho. Puoi anche variare, puoi variare anche, potremmo dire, il calibro. Sì, ma noi ci, non ci con la pittura. Oh, vabbè. Comunque quel cane lì ha fatto danno anche una che abitava nel mio palazzo, gli ha preso il cane da braccio, stava a prendere il portone, c'era lo Yorkshire in braccio e ha dato quel pitbull, gliel'ha preso da mano, l'ha portato su Piazza della Meridiana e l'ha battuto a pezzaliti. Se ne sono andati, il marito voleva ammazzarlo, voleva scendere con la pistola e sparare. Minchia, l'avrà disintegrato, disintegrato, mamma mia, non avrei voluto vedere la scena, per carità, sarà stato un shock per la padrona. Tu pensa che io non so neanche chi è stato a morsicare il mio il cane, perché mia moglie mi conosce e non me l'hanno voluto dire. Il marito no, era norvegese, quindi che puoi immaginare, no? Aveva la pistola e tutto quanto, voleva scendere a sparare sia a lui che al cane, tutti e due. Non è bello dirlo, ma certe volte andrebbe fatto. Vabbè, mamma mia, immagina la scena, per carità. Ho detto Nathalie, no, so già, non c'è bisogno di scendere. Già c'è quella, il canocchialino lì anche a 200 metri. E anche più in là. No, se l'ha portato su su proprio alla fine di Piazza della Meridiana. Al portone se l'ha portato su, capito? Sì, è un problema, è un problema se ci sono padroni a quel livello che se ne fregano. Sì, andrebbe messo il guinzaglio e lui, i braccialetti, tutto. Tanto è cliente abituale, si è capito. E allora, che sono delinquenti, chissi. Comunque io c'ho una cosina fino a 1500 metri, già ce la fa a fare bersaglio. Tu fucile a pompa? No, fino a 1500 metri no. Col fucile a pompa la fotografia gliela fai a 50 metri. Oh no, roba rigatta, Gianni, roba rigatta. Anche se Nathalie comunque quelle distanze non le raggiunge quel calibro. Ci vuole qualcosa di 308, 3006, qualcosa di più forte. Io ti dico che quel calibro lì, i cinghiali, lo sai come li sdraia. Io non ci volevo credere, grazie. Allora vedi vicino a casa che l'altra notte c'erano 5, hanno distrutto tutti i cortili delle palazzine che c'erano, hanno distrutto tutte le piante, tutto quello che c'era piantato, tutto bagnato. Ma non li puoi sparare. Non è aperta la caccia al cinghiale. E poi in città non puoi sparare, ma stai scherzando. Ma a parte il cinghiale, avete visto l'invasione di cavallette che c'è? No, quella no. E cinghiali ce ne sono molti comunque. Però non li puoi sparare in città. L'importante è che non ti vedano. Se c'è il silenziatore è anche meglio. Sì, infatti, ma non ce n'è bisogno di essere, non ne fa rumore, non è come il fucile da caccia, il calibro 12, da che fa un casino della Madonna. Comunque, una bella facciata di fucile a pompa, quei cinghiali, a pallettoni, così non li sbagli neanche se vuoi sbagliarli. Ehi, ho già le cavalette dopo in Sardegna. Ehi, non ho fatto vedere la videolina, penso che sia in Sardegna, mi è un po' sfuggito il coso, ma ho visto le cavalette volare, cazzo, ci venivano a migliaia, stanno mangiando tutto il raccolto. Comunque si può usare, come si chiama, o l'arco o una cosa leggera e silenziosa per buttarle giù. La palestra è meglio. Sembra davvero una punizione contro l'umanità, prima la pestilenza, adesso le cavallette, se le 10 piaghe d'Egitto. La guerra, insomma, un po' tutto. Con la palestra, Marco, non si sente niente, io con l'arco, con la palestra. Con la palestra, con le punte da caccia, gli fai una bella fotografia a Kodak, i Samati. Conata lì, una volta ho provato l'arco in casa con punte da caccia, avevo preso... Ah, poi la carestia, la carestia arriverà dall'Ucraina, eccetera, va bene, piaghe di Gito. Con l'arco ho messo la punta da caccia, che praticamente c'ha tre lame di lametta, di rasoio, è una cosa folle. Ho preso una scatola di televisore, ci ho messo dentro delle coperte vecchie, vecchissime, sai quelle grosse, grosse in lana, belle pressate. Poi l'ho messa a 10 metri di distanza, cioè la lunghezza del corridoio, tiro con la freccia la caccia con l'arco, tiro e non vedevo nulla, vabbè non ho fatto nulla, niente, tranciato tutto all'istante, le coperte pressate di lana, manco viste, è uscita da dietro, passato da parte a parte uno scatolone grande, pieno di coperte pressate, è una cosa micidiale quella punta. Non bisogna mai fare queste cose in casa, io una volta ho sparato con la carabina, ho messo un alternato, ci ho messo un coso di polistirolo, un pezzo di lamiera e poi il tirassegno di quelli grossi per i razzetti, non so se ce l'avete presente. Beh, ha passato tutto gatto e ha bucato il muro. Ma quanto è forte sta carabina? Ma era di quelle depotenziate, di brava vendita. Sì, era una Diana 21 mi pare, la Diana 21. Pensa alla Diana 75, ci sono quelle che col porto d'armi, c'hanno una potenza che praticamente ti ammazzano la persona, incredibile qua. Bella, ci aveva tutto il coso, il manico in coso, il legno, tutto bello lucido, legno lucido, ma bella, tenuta bene. Sì, già lo so, io ne avevo una depotenziata, ne avevo, beh, ha passato la lamiera di zinco del coso, di quelle casette in lamiera che avevamo noi, l'ha passata. E basta lasciare la molla che va. È vero, è vero. Nathalie, tu li avevi visti quei, è molto a punta e praticamente anche se il piombo rimane dietro quello penetra, fa dei forellini minuscoli. Già lo so, ci sono anche quelle esplosive per la carabinaria compressa. Cazzo, che ce le aveva il cognato di mio fratello, me le ha date, le ho provate, cazzo, sono un portento. Io con quella carabina ero diventato di Marco, ogni tanto mi veniva l'Alzheimer e tiravo, però era un po' potente, poi l'ho venduta perché non me ne va di nulla, in casa non si può usare, fuori non la puoi portare, è un casino. Io la trasportavo in campagna alla mia zia, se dove c'è il muro alto ben più di 1,80, pare sia 2 metri, no? In modo da non far andare i pallini oltre, mi mettevo, che ne so, palloncini pieni d'acqua, pieni d'aria, lattine, oppure il bersaglio a figura umana anche, però più che altro usavo il bersaglio da carabina, oppure anche quelli per il tiro con l'arco, naturalmente li mettevo più distanti perché è più grande e così passavi le serate. ma rischi, perché quando la puzzi in giro, se trovi quello pignolo, te la sequestri. Però il trasporto è legale, il trasporto non porto, è trasporto, cioè nel cofano chiusa e scarica ovviamente. Il trasporto è sempre stato ammesso, cioè da un punto all'altro, certo se te ne vai a... cioè se non stai andando... vabbè, già hai capito, là. Usi, comunque se trovi lo stronzo cerca di attaccarsi a qualsiasi cosa. Cara, stavo dimenticando, ciao. Abbiamo parlato in due già. No, ti voglio dire, se trovi lo stronzo, anche se c'è la legge, cerca di attaccarsi a qualsiasi cosa. Quello è ovvio. Ciao Giao, credo che stai forse stai andando giù. Ci sentiamo, vai Natalia. Ciao Gianni, ciao. Buona passeggiata. E basta tenere la scarica in custodia dentro il coppa. Che cosa ci devono attaccare? Ehi, Gianni credo che abbia confermato che sta scendendo giù, sotto, l'ho sentito. Ci avete tutti il dito veloce, riprendete sempre in due. È Gianni che c'ha il dito veloce, non io. No, cosa stavi dicendo Natalia, appunto, della sì, scarica in custodia, certo se te la trovano in macchina. A proposito di macchina, hai visto in via Maddalena dov'era, quello scemo, due automobilisti hanno avuto a che dire per una precedenza, e questo che è già ben noto alle forze dell'ordine, si è tolto una katana e gli ha tirato una sparata a testa, però credo che non fosse una vera katana, perché le vere katana costano migliaia di euro, vere spade, quella sarà stata di quelle cagate da esposizione di metallo, lui l'avrà affilata un pochino, perché se fosse stata una katana vera lo tagliava in due, Minimo, poi le katana originali qua in Italia non sono ammesse, tra l'altro. E poi oltre tutto costa migliaia di euro. Oppure no, magari sono ammesse però col porto d'armi, cioè sono armi vere e proprie. Ti tagliano il capello le katana vere, a parte che se sono fatte proprio in Giappone con i principi antichi, cioè il metallo ripiegato decine o centinaia di volte e ribattuto, sono cose anche rare e costosissime, no? Sono opere d'arte. Quelle che vendono da noi sono quelle cose da esposizione, lui gli avrà fatto un po' il filo con la pietra, che poi è ferraccio, mi è ferraccio di infima qualità. Intanto se l'è portata in macchina, ha visto, ha avuto a che dire per una mancata precedenza, che l'aveva fatta lui la mancata precedenza, non l'aggressore, e quello gli ha tirato una sparata a testa e l'hanno arrestato, quindi cosa ne ha avuto? L'hanno arrestato, peggio baello. Sì, infatti, no, non sono ammesse, addirittura quelle da collezione, quelle di ferraccio, non devono essere neanche affilate, guai se ci trovano una di quelle affilata. Sì, infatti quelle che vendono anche da Pasquali sono da esposizione, cioè le metti al muro, ci sono le repliche tipo Kill Bill, tutte quelle menate lì, copie di film sono. Però se la fili, diceva non te lo spiego chi è, cioè anche se tu la fili appena appena non diventa una spada di quelle illegali, diciamo che c'è una mezza cagatta di ferraccio leggermente affilata, tutto lì. Però portarsela in macchina e tenersela all'atto guida e lì è troppo sporca. Lo so, già non puoi tenere neanche la cassetta dei ferri, perché devi giustificare come mai c'è la cassetta dei ferri in macchina. La può avere un meccanico e ogni volta che la carica in macchina deve avere la bolla di accompagnamento per la cassetta dei ferri. Perché vanno a peso, capito? Questi vanno a peso. Adesso te ne dico una. Allora, carabina aria compressa liberalizzata la puoi trasportare e fin lì ci siamo. Trasportare da un punto A a un punto B, non portare abitualmente con te in macchina. E c'era un baraccello, collega di quell'amico, il figlio della 3, diceva, nonostante io gli abbia portato la legge scritta, stampata, sbattuta a faccia, diceva, no, se io trovo uno che trasporta la carabina, anche se liberalizzata, io denuncio, capito? Se sente, gli sbatti la legge a faccia e dice no, noi facciamo, ma cosa c'ha quel collega tuo, cosa c'ha che non va? Dice, lascia perdere, è per fare scena che lo fanno. Quello è abuso di autorità, si chiama. Sì, ne ho visti altri casi analoghi, roba legalissima che puoi portare con te, trasportare o portare, dipende dagli oggetti. È un poliziotto di quelli giovani e scoppiatelli, no, che sono tutti esuberanti, dice no, non mi interessa, io se trovo quell'oggetto legale o no, portabile o no, io denuncio, perché loro vanno a peso, più denunce fai, più gente denunci, promozioni, meriti, medaglie, lo sai come va, no? Poi che venga assolto, allora non ne frega niente, l'importante è fare il coso annuale, tot denunciati, tot arrestati, tot roba sequestrata, capito? Non ne ha fatti nulla. E però non devono trovare la persona tipo me, hai capito? Perché se lui mi fa una cosa del genere, io lo denuncio a lui poi, hai capito? E mi baga come un tenuto. Se io una cosa la porto legalmente e lui poco si mi denuncia, ecco, mi metto l'avvocato e lo rendo in mutande. Anche io dicevo così, Natalia, ma poi è difficile a farsi, cioè stai 20 anni in causa, tanto allora non gli fanno niente, o quasi, a meno che non sia una cosa talmente grave che fanno, ma per queste cose qua proprio vanno a peso, è inutile dirlo a scherzo, vanno a peso. Oh, per loro l'importante è denunciare a priori, poi che uno sia assolto, loro che hanno le scartoffie, promozioni, medaglie, vabbè. Non è così, ti ho detto che se a me mi violano denunciandomi per una cosa che io non ho fatto, gli faccio causa e gli tolgo anche le mutande. Vabbè sì, comunque esistono i reati di tipo abuso d'ufficio, oppure quando scrivono sulle cose non vere, come si dice? Uffa, porca miseria, il reato, c'è un nome particolare. Porco Giuda, non mi viene. Affermazioni mendaci. Sì, un altro termine, sì, quando praticamente loro, per esempio anche denunciano sì, una persona per una cosa non vera, quando alterano la realtà comunque. Porca miseria, non me lo ricordo più, vabbè, non fa niente, già hai capito. E simulazione di reato? Può essere falso ideologico? Non mi ricordo però, perché è da tanto che non ripasso quella roba lì. E una cosa che loro non possono fare, se tu li denunci ci rimettono loro, hai capito? Non è che non gli fanno un cazzo, perché tu gli fai causa, li basi nello bruzzese, brutti. E ma rischi di stare in causa 20 anni per poi non approdare a nulla. No, altro che non approdi a nulla, se lui a me mi fa una cosa, se io non l'ho fatto questo reato e tu dici che io l'ho fatto questo reato e il giudice vede che io non l'ho fatto il reato perché la legge dice che io quella carabina la potevo portare, so cazzi sui. Sì, ma intanto loro ci tentano perché sanno che trovano molte persone che... Allora, falsità ideologica, vediamo. Consiste nell'attestazione di fatti e situazioni non veritieri. L'atto è quindi autentico dal punto di vista formale, ma il suo contenuto è infedele alla realtà. Ecco cos'è il falso ideologico. Infatti, se tu a me mi denunci una cosa che io non ho giovato, è vera legge che lo dimostra, perché io a te ti dico che la posso portare e tu mi stai denunciando, ui, passa i guai, te lo dico io. Non è perché sono poliziotti, forze dell'ordine, possono fare ciò che vogliono. Poi c'era, vabbè, una distinzione sottile o non tanto sottile da, tra il falso ideologico e quell'altra cosa che avevamo detto. Tutti i tecnicismi, dai. Vabbè Nathalie, che ora abbiamo fatto? Mi sa che mi accendo la TV. 9:15, chiudiamo. Chiudiamo, se devi andare a vederti la TV, chiudiamo, dopo che ti dico. Perché noi stiamo praticamente pranzando e cenando agli orari normali, tipo 2:30 il pranzo, 9:30 la cena. Siamo un po' rientrati nella normalità, tra virgolette. Infatti io mi trovo male. Mi trovo male perché a quest'ora io ancora non ho fame. E cosa ti dico? Ero abituato agli orari strani che utilizzavo io, quegli orari balordi, no? E così poi accenno anche la TV, ok, già abbiamo parlato abbastanza. Ciao Natali, buona serata, buon tutto e sentiamo la prossima. Ciao ciao. Ciao Marco, ciao. Grazie per le quattro chiacchiere, allora salutami in casa.